Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Mamma, chiedo asilo. Tito, giù. Allora, bentornati. Sì, perché vuole presentare lui. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Tito. E un saluto da Tito, dai. Un saluto da Cappa e da Drago. Cosa c'è adesso? Cosa guardi, Drago? Sempre che mi guardi! Sei ingrassato? Ma non lo so, che domande sono? Non lo so. Sono visto che il tema di oggi è l'obesità, torniamo al nostro tema. Sta già andando in onda una nuova puntata di Sei Grassa! L'ormai mensile ed ex settimanale di stupidità universitarie da tutto il mondo. Ogni volta cambia il titolo, però il senso di Sei Grassa è proprio quello: raccogliere le dicerie documentate da studi scientifici serissimi sulle cause dell'obesità infantile. Come forse qualcuno ricorderà, nelle puntate scorse sono emerse verità molto scomode, tipo che avere le tonsille fa rimanere magri. Quindi non avere le tonsille fa diventare grassi, obesi, così come avere la mamma che lavora fa diventare grassi, fa il diventare figlio, il figlio anche obeso, se tu hai 60 anni, tua madre ne ha 80 e diventi lavora obeso. E fa TNT Traco, sai, quando vanno a consegnare da pensionate i manoscritti, le mamme per raggranellare. Se tu hai 60 anni e a tua madre fa quello, tu ingrassi, anche se prima sei stato sempre magro. Però la puntata di oggi aggiunge un nuovo tassello al complicato puzzle o puzzle delle cause dell'obesità infantile. La Northwestern University, mai sentita nominare in tutta la mia vita, ha appena pubblicato i risultati di uno studio lungo, pensa, 18 anni, condotto su 2.400 persone. Il risultato sconvolgente di 18 anni di precisissimo esame dei comportamenti di queste 2.400 persone è stato che la religione fa ingrassare. La religione. Mettendo a confronto i livelli di partecipazione ad attività religiose di giovani tra i 20 e i 32 anni d'età con il loro indice di massa corporea 18 anni dopo, i ricercatori hanno scoperto che tra i più religiosi la probabilità di essere obesi era del 50% superiore. Vabbè, ma è una coincidenza. Ma che studio è? Ma cosa, 18 anni? Infatti proprio uno degli autori dello studio lo dice: non sappiamo bene perché la religione sia associata all'obesità. È possibile che il ritrovarsi insieme una volta alla settimana, associato all'alto tenore di vita che di solito hanno le persone religiose, possa portare a comportamenti che tendono a fare ingrassare. Alto tenore di vita che di solito hanno le persone religiose. Lo so, cos'è? È pieno di barboni che chiedono la carità, tutti pieni di santini. Allora, così. Quelli non sono né grassi né ricchi, ma religiosi sì. Eh sì, ma il fatto poi è che chi è religioso, secondo me, in teoria, dovrebbe considerare questa vita solo come un passaggio transitorio, no? In attesa della vera vita, la vita che verrà. Quindi non dovrebbero esserci dei ciccioni tra questi qui, perché mica si mangia tanto in attesa della vita che verrà. Tu sei qui solo di passaggio, non è che ti indugi. Perché no? Scusa. Perché? Perché si sa, no? Quando aspetti viene fame. Chiedo asilo! Bambino Albano, non ho capito una cosa, ma il tuo telefonino è touchpad? Touchpad. È un touchpad, quindi è un telefonino, come si chiama? Un smartphone. No, io non lo so, è smartphone. Touchpad, che col dito muovo e faccio tutte le azioni. Certo, però basta adesso, perché no, all'asilo non è possibile apportare telefonini. Fa vedere com'è. Bisogna, ma tu non ho capito. Ma ce l'hai il giochino con lo Angry Birds? Ma no, io lo uso solo per fare il freestyling. Il freestyling. È il freestyle o il freestyling? Io sono il freestyler. Ha a che fare anche con il freestyling. Ma non c'entra, di capelli, no, è il stylist, rap, è espressione. Espressione. È musica, no? Cioè vuol dire improvvisare, essere bravi a improvvisare. Tu col telefonino schiacci, vai con la base e rappi sopra. Allora, prima facevo così, adesso invece do il telefonino a Gildo. Gildo manda la base. Sì, ma l'ha già fatto una volta ed è andata male. Se manda la base giusta, io vado sopra e improvviso. Improvvisi, esatto. Quindi, bambino Alberto, bisogna essere molto bravi a improvvisare. Avere un bel talento per le rime, per la metrica, e sapere già che cosa devi dire. Allora, sì, oppure no, si potrebbe anche suggerirgli un tema e lui improvvisa, capito? È così. Addirittura. Le gare tra rapper le fanno così. Molto difficile. Vabbè, quindi. Su quello non c'è problema. Infatti. Cioè, l'importante è che ci sia la base che funziona. Allora, facciamo, diciamo, il tema di oggi è discriminazione. Dai, sì, improvvisiamo su discriminazione. Sai cosa vuol dire, subito? No? Sì, subito, beh, subito. Allora, ah no, fai partire dalla G. Ma dov'è Gito? Gito? Ma dov'è? Vabbè. Ma che G? Allora, adesso la chiamo, è la base, quella lì. A 4. A 4. Dai, vai, vai con 4, vai. Vai, quella è buona, quella è giusta. Vai. Tieni così, eh? Dai. Vai. Vai. Gido, Gido. Oh, Gido. Non perdere tempo. Discriminazione. Chiama tua madre. Ecco. E di chi stiamo arrivando? Dai che prepara. Prepara la torta. Ma la discriminazione. Ma solo per noi due. Ah, ah. Non per il figlio della portinaia. Che poi quando siamo, che abbiamo giocato a pallone ci dai. Ma, ma sei fuori metrica. Allora, la base. Ma no, no la base. Detto. È andata bene per... No. Allora, mi dovete spiegare. Amino Alberto. Qui c'è la base, che calmati. Proprio funziona. Amino Alberto. Ci sei. Ma gli viene da piangere, vedi? Ma dai. Allora, mi rovina tutto, perché quando fai improvvisazione, lo fai o ci metti dentro tutto te stesso, no? Ma infatti tu... Questo ti rompe... Sì. No, cosa? Anche tu mi interrompi! No, io infatti no, volevo solo dirti che secondo me tu hai troppe cose da dire. Allora? Tutti insieme. Ma allora, l'altra volta dicevi che non aveva niente da dire. Invece adesso ho notato che c'è un affastellamento di cose da dire, che gli vengono al cuore. Ma secondo me è solo un problema di ritmo. No, capito? Devi stare... ma è tuo problema, ma non cosa della... tuo? È un problema di ritmica, quindi uguale base. Ma e no, la base chi è che la comanda? Gildo. Sì. Che non... Gildo. Allora, all'inizio fa bene, poi dopo lì... Poi dopo si distrae, per questo la testa è un po' così. Ma la base... E il ditino gli va. Capito? Come se fosse un videogioco. Ma guarda, allora che non è vero, cioè, cambia, non cambia la base. Io continuo ad andare per il mio ritmo perfetto. Sì. Cadenzato proprio che... e questo mi va fuori base. Beh, comunque, Alberto, stai un po' più attento, dai. Solo un po' più attento. Diciamo che non vai fuori ritmo. Stai solo un po' più attento. Dai, riproviamo. No, però, però adesso cambiamo tema. Se no lui sa già... no, se è una vera gara così di improvvisazione, cambiamo tema. Facciamo sempre con... Azione, sì, tipo frustrazione. Dai. Frustrazione. Gildo, cos'è? Gildo, vai con 5. Però facciamo una cosa, tu, perché poi ti distrai. Fissa il tuo dito. Dai, vai, comincia con 5, sto. Vai, questo va. Vai. Ma è uguale. Questa ci siamo. 5. E questa è l'altra. Ma guarda che è la 4 questa. Come? Gildo, Gildo. Frustrazione. Non perdere tempo. Chiama tua madre. Uguale prima. E di che stiamo arrivando? È uguale. Però poi, se io non trovo i pasticcini? Ma cos'è? Ma fa ridere solo te, Gildo, sta roba. Non fa ridere. Cos'è adesso il freestyler che fa ridere? No, che ridere! Adesso qui è tutto... Cosa? Dai, Gildo, Gildo! Gildo. Oh. Non perdere tempo! Ma di nuovo? Chiama tua madre! Sì. E di chi stiamo arrivando? Ok. Quando saliamo? 5. Che magari troviamo? Che magari... Tutti i dolciumi? Sì. E le bibite? Ma poi... Quando, e l'altra volta siamo saliti e non c'era niente. Allora mi sentivo... È una frustrazione, no? Allora, ma cazzo, ma sono andato a fare base ancora! Ma basta, è una cosa impossibile! E io spreco energia! Ma basta, è finita! Chiedo asilo! De. Qui è l'aggiornamento da Fukushima. Sì, perché se ricordate storia... Nuclear Boy, certo, che è un po' il simbolo del disastro che sta succedendo. Le coliche. Lui che ha mal di pancia. Per spiegare ai bambini giapponesi quello che sta succedendo nella centrale, hanno spiegato che c'è questo Nuclear Boy che ha mal di pancia e che scoreggia. E non deve però fare la cacca, attenzione. No. I medici sono tutti concentrati lì per tenere tutto fermo lì nel suo intestino, sì, diciamo. È bello duro. E quindi così continua. Sasso interno, un sasso. Sì, abbiamo già detto. E quindi ci sono gli scienziati che gli chiedono: Atto kago. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, ma kagaro. Oh, trampo. Oh, oh. Noi dello Stoppani non mangiamo i cani, invece siamo ghiotti di finocchi cotti. Chiedo asilo. Ma come hai pronunciato? Come? Cotti per farla cotti. Rima. Fare rima con ghiotti, non è ghiotti. Questa ce la manda Gigi Venturelli. Grazie Gigi, da Spilamberto, provincia di Modena. Lì ci sono gli asini migliori del mondo. Ah sì? Andiamo lì a... Che chiedere asilo, andiamo via. Chiedere asilo. chiedere asilo, re.